programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E ci incontriamo oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con una puntata speciale, quindi una puntata monografica, un po' fuori, diciamo, da quella che è la tradizione di Non ci sono più le mezze stagioni, dalla formula originaria. Sapete che ogni tanto mi piace concentrarmi su un argomento in particolare, e si tratta questo di un argomento, di un tema che ci riguarda molto, molto da vicino e sempre di più, e diciamo anche sempre con più urgenza. Sentiamo di cosa si tratta. Ehi, mambo! Mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, go go go, you make up siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy whip. Ehi mambo, don't wanna tarantella, ehi mambo, no more mozzarella, ehi mambo, mambo italiano, try an insalata with the fish and baccalà and then. Al di là del baccalà e della mozzarella, mangeremo ancora o non ne mangeremo? Insomma, questo è il tema, quest'Italia in ballo, che balla, balla nel senso traballa o balla perché siamo in ballo e ormai dobbiamo ballare. Vedremo dove ci porterà anche questa specie di mambo italiano. Questo quindi è il tema, diciamo, l'Italia che è in un momento di passaggio estremamente delicato, naturalmente dovuto a questa crisi che riguarda un po' in tutto il mondo, ma in particolare il nostro paese, è anche una crisi specifica italiana. E anche per capire, insomma, il passaggio delicato è anche quello di questa temperie politica, diciamo, dove stiamo andando, che cosa ne uscirà da tutti questi sommovimenti politici, dalla situazione anche dalle forti tensioni sociali che stiamo vivendo, un'economia e una politica in crisi, le classi dirigenti che saranno in grado o no di sollevare questo paese. Ecco, quindi potremmo dire che la puntata monografica questa volta verte su vizi e virtù dell'Italia, i vizi che la affondano e le virtù, se ce ne sono, cercheremo di capire che potrebbero invece riscattarle. Naturalmente, ascoltatrici e ascoltatori, vi presento gli ospiti con cui parleremo di questo tema. Michele Ainis. Allineato e presente. Molto bene, allineato e non sempre, non troppo, caro Michele, per fortuna, tra i più noti costituzionalisti italiani, docente all'Università Roma 3, collabora editorialista del Corriere della Sera, dell'Espresso, saggista, ha scritto di recente Privilegium, e poi ne parleremo. L'Italia divorata dalle lobby, questo già vi dice, insomma, di cosa andremo a parlare. Mario Secchi, caro Mario. Non allineato e presente. Presente, ognuno c'è la sua. Direttore del Tempo, ci mettiamo già, come sentite, un po' di allegria, perché bisogna tirarsi un po' sul morale con quello che andremo a dire. E libro recente di Mario è Tutte le volte che ce l'abbiamo fatta, quindi già introduce, ecco, un po' di ottimismo. Storie di italiani che non si arrendono, e lui probabilmente è uno di questi. Lina Sotis, benvenuta Lina. Ma ciao, anche io poco allineata, sorridente e presente. Bene, abbiamo aggiunto un sorriso per Lina Sotis, che sapete è stata da sempre maestra di bon ton e collabora col Corriere della Sera, ha un suo blog che è www.tranquilla.it e ha scritto questo libretto di risparmio che capiremo bene di cosa si tratta. E c'è Carlo Carboni, benvenuto. Buonasera, anche Carlo Carboni. Eccomi. Docente, molto sintetico, caro Carboni, docente di sociologia economica all'Università Politecnica delle Marche e editorialista del Sole 24 Ore. Tra i suoi saggi che riguardano molto da vicino questo tema c'è Elite e classi dirigenti. Io direi allora di buttarci a pieno in questo tema, cominciando da Michele Ainis. Michele fa questa premessa, a parte il titolo Privilegium già ci dice molto di un'Italia che stiamo soffrendo sempre più, un'Italia che noi, diciamo la gente comune, soffre sempre più, questi privilegi, si è partiti dalla casta, nel senso per antonomasia quella politica, no Michele? Ma non è solo questa, e tu infatti dici in sintesi, è un'analisi il tuo libro, impietosa e sferzante dei fallimenti del sistema paese, perché i responsabili del declino siamo tutti noi, quindi ci tiri tutti dentro Michele. Ma diciamo che se questa nostra chiacchierata per oggetto i vizi e le virtù, a me tocca declamare i vizi e quindi ne avrò fino a dopodomani. Purtroppo. No, per diciamo passare questo guado che abbiamo davanti, io credo che sia fondamentale prendere coscienza dei problemi che abbiamo da superare e delle cappe, insomma, di cui dobbiamo liberarci. E io credo anche, avendo sviluppato una ricerca che è durata molti mesi, che ha invaso di faldoni la mia scrivania su, appunto, sui privilegi delle categorie sociali, di tutte le categorie sociali, a cominciare da quella in cui sono iscritto, che è quella dei docenti universitari, ma abbiamo bisogno di recuperare il valore dell'eguaglianza. L'Italia è diventata sempre più diseguale. Perché infatti specifichi, Michele, l'Italia è costruita sulla disuguaglianza, sulla prepotenza e sull'abuso, credo che tutti possiamo confermarlo questo senza nessuna difficoltà. Sì, e questo ci ha fatto un po' perdere il sentimento dell'unità e della solidarietà, di ciò che ci unisce, ciò che ci lega, era il titolo di un libro di qualche anno fa del presidente Napolitano. Nel contempo è un paese immobile dove l'ascensore sociale non funziona, noi abbiamo una diseguaglianza che grosso modo fa il pari con quella che c'è negli Stati Uniti, che però sono un paese più dinamico, dove se nasci da papà operaio non è detto che debba fare anche tu l'operaio. Il famoso sogno americano ancora un po' resiste. Ma lì ancora funziona. Da che cosa dipende questo? Tra i dati che abbiamo tirato fuori con questo gruppo di lavoro per Privilegium, ho scoperto, facendo un salto sulla sedia, che noi abbiamo in circolo 63.000 norme di deroga. Facendo una ricerca su una banca dati normativa, con le parole chiave tranne, a eccezione, in deroga, eccetto, che ne sono venuto fuori 63.000. Allora, questo che significa? Significa che ogni categoria ha un abito normativo tutto suo, e che non possiamo ritrovare l'innocenza lavandoci l'anima attraverso il tiro al bersaglio verso la cassa dei politici, che c'è ed è colpevole di molte malefatte. Però l'Italia è disgregata perché ogni corporazione ha la sua legge e ogni legge diventa un privilegio, e questo ci fa vivere tutti separati in casa. Invece Mario Secchi, che dicevo ha scritto tutte le volte e che ce l'abbiamo fatta, al contrario del libro di Michele Ainis, Privilegium, che sta facendo crescere la voglia almeno di armarsi di fionde, ma tutto più, possiamo prendere dei pomodori in mano, scrive Mario tutte le volte che ce l'abbiamo fatta, perché racconta le storie di tanti italiani illustri che hanno portato anche in giro per il mondo il genio dell'italianità, però nella tua quarta di copertina scrivi: l'Italia è un paese che si sottovaluta, fermo sulla soglia del mondo, abitato da irrimediabili Peter Pan, io però direi anche da molti Batman e l'opposto dei supereroi che non vorremmo certo, no Mario? Certo, ma non ci sono dubbi, l'analisi che ha fatto Michele poco fa è tutta da sottoscrivere, dopodiché io dico sempre: ok, questa è l'analisi, risolviamo il problema. Come? E il problema si risolve con un paio di accorgimenti. Intanto ripescando le nostre radici, perché questo paese è stato capace di fare grandi cose. Pensate al dopoguerra, in tutte le volte che ce l'abbiamo fatta io racconto di un paese che era praticamente in macerie, c'erano 850.000 famiglie, pensate, con quei tassi di natalità, che vivevano in baracche, non avevano la casa, ce n'erano altre 650.000 in cui non c'erano le scarpe, e altrettante in cui non c'era lo zucchero, non si sapeva cosa fosse il caffè, così via. Eravamo un paese stremato. Eppure, nel giro di pochissimo tempo, quel paese aggancia il boom e inventa il miracolo economico. E facciamo le autostrade, il piano casa, con De Gasperi troviamo una soluzione italiana per agganciare la modernità. E poi pensate ai personaggi che abbiamo tirato fuori, e in tutti i campi dello scibile. Noi abbiamo inventato l'energia atomica con Fermi, abbiamo inventato il telefono con Marconi, Meucci. Abbiamo inventato la radio con Marconi. Io, te, Ainis, Assotis e il professor Carboni non saremmo qua se non ci fosse stato Guglielmo Marconi. Ringraziamo simbolicamente Marconi. E ringraziamo questo genio italiano. Pensate, andando in altri campi e venendo al presente, Riccardo Muti, no? Io lo descrivo, il master commander del podio della direzione d'orchestra. Anche la plastica con Giulio Natta, come no? No, Giulio Natta, noi italiani abbiamo inventato la plastica, i più anziani, ma neanche troppo, perché me la ricordo pure io, ricorderanno una pubblicità di Gino Bramieri che diceva: ma signora Buddy Ben, che si è fatto di Moplen? Era l'oggetto domestico, che ne so, la vaschetta e così via, fatta di plastica. Era un'invenzione italiana che invase il mondo. È l'uomo che ebbe questa straordinaria idea di lavorare sulla chimica. Questo si chiamava Giulio Natta, premio Nobel per la chimica. Infatti, premio Nobel, molti magari non se lo ricordano. Mario, sì. Poi andremo man mano ad approfondire dai vari personaggi, vediamo se ci incoraggiano un po' e ci motivano. Volevo sentire anche Carlo Carboni, a proposito di elite classi dirigenti, scriveva, ed è una cosa che è sempre molto valida, alcune cose, no, rispetto alle elite italiane. Le elite italiane sono a sesso unico, mi piace metterlo come priorità questa cosa, cioè soprattutto maschili, diciamo al 90% più o meno, sono gerontocratiche, quindi i vecchi, appunto, poi ha avuto particolare fortuna anche per questo, forse questo movimento della rottamazione, diciamo così, o del rinnovamento, sono provinciali e poi scrive anche Carboni, sono forti in consenso e deboli in competenza, sinteticamente. No? Sì, penso che quel tipo di analisi ancora oggi sia interamente vero, no? Noi poi in definitiva paghiamo oggi quel capitalismo politico che ha caratterizzato poi in fondo, al di là del boom industriale che è stato circoscritto a una parte del nostro paese, diciamo al nord-ovest, da prima noi paghiamo in realtà un capitalismo politico che, come Ainis ha ricordato, è stato dispensatore di privilegi, costruttore di clientele, di consenso. E infatti quando si parla di vizi e virtù, ma direi, cioè, forse il vizio, i due vizi peggiori italiani, guardando indietro la storia repubblicana, sono stati proprio questo panpoliticismo politico dal lato, e il fatto che su in alto, diciamo nel ponte di comando, non ci sono i migliori, non ci sono i migliori, non sappiamo selezionarli, o comunque come dire, dobbiamo rafforzare la presenza dei migliori nelle nostre classi dirigenti. Questo è sì. Infatti questo ancora una... è il problema Carboni della meritocrazia, della quale poi parleremo anche con Michele Ainis. Esatto. E invece per le virtù è chiaro che noi abbiamo, qui ha ragione Secchi, insomma, abbiamo una cultura millenaria, abbiamo avuto straordinari talenti, non solo nel passato, ma anche in un passato piuttosto recente. Qui però vorrei dire a Secchi, il problema è che noi dobbiamo saper incarnare questa cultura millenaria, anche questa nostra genialità, e noi oggi abbiamo invece proprio difficoltà ad incarnarla, per esempio proprio nelle classi dirigenti che, appunto, come dicevo prima, spesso non sono composti dai nostri migliori elementi. Cambio paese, cambio continente, cerco di nascondermi tra la gente, ma è la mia di gente che non riconosco. Povera Italia, cosa hai fatto? Hai sbandato e sei in ginocchio. In ginocchio abbastanza, stiamo parlando in questa puntata monografica speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, sempre Roberta Giordano con voi, parlavamo con gli ospiti che sono in collegamento, con Lina Sotis, Michele Ainis, Mario Secchi, Carlo Carboni, appunto di questa Italia così sprofondata un po' in un momento di passaggio molto difficile tra crisi economica, tensioni sociali e anche un certo declino culturale. Stiamo cercando di capire quali sono i motivi, quali sono i vizi, insomma, che sprofondano il nostro paese e quali potrebbero essere invece degli elementi di riscatto. Per esempio Lina Sotis, che dicevo ha scritto Libretto di risparmio, cara Lina, tu sei ottimista e per esempio inizi dicendo: arriva la crisi, tranquilli, è la nostra grande occasione. Questa è una bella provocazione, cara Lina. Dice: dimostriamo ciò che siamo. Che siamo, Lina? Allora, io la vedo sorridendo. Perché non proviamo a pensare? Arriva la crisi, meno soldi, ma più sorrisi. Poi, siccome parlo con tutti i signori molto sapienti, vorrei ricordar loro cosa diceva Durkheim, il grande sociologo, ovvero che nelle società primitive c'era la solidarietà meccanica, ovvero adesso guardiamo delle palafitte, una signora che allatta il suo infante e l'altra della palafitta vicina che gli porta il suo e lo attacca all'altra tetta perché lei va a raccogliere il cibo per tutte e due le palafitte. Meccanico, tutto normale. Ecco, io aiuto te, tu aiuti me. Quindi solidarietà, ma noi siamo un po' ormai lontani, no? da questa modalità di vita che dici. Beh, ti voglio vedere quando non hai niente e te hai qualcosa in più. E allora cambi, eh? Insomma, dobbiamo puntare su questo. E poi tutto intorno a noi sta già cambiando. Ah, quello inevitabilmente, sì. Inevitabilmente. Mettiamola, col dire, sul ridere, sul sociale. Prima la mappa dei buoni partiti voleva il buon matrimonio, era un signore dovizioso, oppure un impiegato. Ah, ma adesso, per carità, i doviziosi non esistono più, non esiste più il punto fisso, ma qual è il buon partito? L'idraulico. Come vedi? Tutto cambia intorno a noi. Poi proseguiremo con questa filosofia di Lina Sotis, però ritornando a Michele Ainis. Michele, mi spieghi cos'è il gene notarile? Ah, io temo avrò difficoltà a trovare un notaio che mi stipuli un atto quando ne avrò bisogno, perché un capitoletto è dedicato... Del tuo libro Privilegio, ma a proposito di privilegi per l'appunto, sì. Sì, c'è un capitoletto anche sui notai che sono degli ottimi professionisti mediamente, però non si capisce perché debbano essere grosso modo sono 4.000, adesso non ricordo la cifra esatta, e invece negli Stati Uniti sono 4.500.000, perché lì c'è un rito che in realtà non è un rito, senza troppe bolli e formalità, e allora tu il notaio lo trovi anche alla stazione di servizio. È vero che il notaio, diciamo il modello latino, che però è minoritario in tutto il globo, ti dovrebbe offrire maggiori garanzie, però insomma non è che abbia impedito gli immobiliaristi spregiudicati, così, che sono finiti in guerra giudiziaria, alla Ricucci o scandali di altro tipo. È una categoria che si protegge, nel senso che è a numero chiuso, anzi chiusissimo. Devo dire che né i governi di destra né quelli di sinistra, con l'eccezione di alcune regole che ha messo in circolo Bersani quando era ministro, né questo governo tecnico hanno mai aperto una stagione di vere liberalizzazioni. Quindi noi ci... Dici, ci sono mille corporazioni, insomma, siamo soffocati da queste corporazioni, dice Michele. Per esempio, dico solo questa battuta, non voglio rubare spazio agli altri, però... gli ordini professionali sono un lascito imperituro del fascismo, risalgono agli anni 30. Quindi intendi anche quello dei giornalisti, gli hai dedicato proprio una righina così, però intendi anche questo tu? Certo che sì. Poi i miei amici giornalisti, quelli con cui parlo, non è che siano così contenti di avere l'ordine. Evidentemente saranno disordinati, i miei amici, non so. Ma Mario Secchi, andiamo a cogliere, diciamo, questo spunto che aveva lanciato prima Carlo Carboni, no? Dicendo, riconoscendo appunto le virtù italiane, parlando di quel periodo grande, glorioso del boom che c'è stato nel dopoguerra, che è seguito poi negli anni 60. Però dice, noi quel genio e quel boom, anche se specificava Carlo Carboni, è stato piuttosto circoscritto geograficamente per quanto riguarda l'Italia, noi però dobbiamo essere capaci oggi di incarnarlo, perché effettivamente quelli che tu racconti, a parte su Marchione, ma non so, mi vengono in mente come personaggio femminile le sorelle Fontana, voglio citare anche delle grandi donne che hai messo nel tuo libro, appartenevano davvero a momenti storici, sociali e culturali dell'Italia molto diversi, no? Quindi uno potrebbe pensare, allora ce l'abbiamo fatta perché eravamo così, ma oggi possiamo ancora. Ce la facciamo. Carboni ha moltissime ragioni dalla sua, e condivido l'analisi, però noi abbiamo bisogno di grandi metafore e di visione. Ha ragione quando dice noi dobbiamo essere capaci oggi di incarnare questa cultura millenaria. E infatti tutte le volte che ce l'abbiamo fatta è questo tentativo di intrecciare il passato con le sue glorie, con gli esempi positivi del presente e i problemi che ci presenta la contemporaneità e di trarne insegnamento. Io credo che il fondamento di questa nostra storia sia la scuola, la ricerca, l'università, cioè gli italiani di oggi e di domani sono fatti dal sistema educativo, non da, da altro. E su questo punto noi non siamo capaci di essere all'altezza sia della nostra tradizione, ma soprattutto delle sfide che ci propone il presente, la contemporaneità continuamente. Nella parte finale del libro, nell'ultimo capitolo, io a un certo punto descrivo una mia esperienza americana. Faccio un master alla Singularity University in Silicon Valley, è un'università fondata dalla NASA e da Google, per intenderci, e a un certo punto faccio una lezione di, non ridete, colonizzazione spaziale. Cioè, tu volevi andare su Marte, cosa che di solito tocca a me il sabato, questo volevi fare? Sì. Allora, lì è interessante perché a un certo punto su uno schermo viene proiettato un asteroide e mi si chiede quanto vale, e io dico, ma quanto può valere quel bozzolone che rotola nello spazio? E due secondi dopo la domanda compare in sovrimpressione sull'asteroide una lista di minerali comuni, rari e rarissimi, e subito a ferro, cioè è una miniera. Allora, la lezione primaria di questa esperienza, di questo frammento che vi racconto, è stato molto lungo e assai istruttivo, è che nulla è impossibile. Cioè, noi dobbiamo ricatturare il nostro immaginario, la nostra capacità di essere italiani fino in fondo. Noi siamo stati capaci di costruire cose che non avremmo mai poi pensato di utilizzare anche oggi. E invece questo lo abbiamo fatto. Carlo Carboni, quindi ha sentito bene Mario Secchi, è possibile, qui dice, nulla è impossibile, ma è possibile con queste classi dirigenti? E se non fosse così, diciamo, una domanda un po' retorica, come si fa a ricominciare da zero, come anche il sottotitolo del libro di Lina Sotis, no? Proprio di classi dirigenti, noi, che sono sesso unico, gerontocratiche, provinciali. Io in verità nel profondo, come dire, la penso molto come Mario Secchi, cioè questo è un paese dalle potenzialità notevolissime. Io ho appena finito di scrivere un libro, Il paese che funziona, con il mulino, che è un'analisi delle eccellenze industriali in Italia, e ce ne sono tante. Il problema è che queste eccellenze non fanno tessuto, il problema italiano è questo, il problema italiano è che purtroppo è proprio il ponte di comando che non riesce a incarnare, diciamo, il paese al livello in cui questo paese è oggi, anche oggi, dopo questa, con questa sua capacità culturale, anche di competenza, voglio dire, sia tecnologica che anche generativa. Quindi il problema è proprio che è nella sintesi politica, questo lo vorrei dire anche a Michele Heinz, perché certo ci sono tanti corporativismi e tante, come dire, sopraffazioni categoriali, spesso, no, sul bene comune, collettivo, senz'altro, ma questo è in tutti i paesi, perché, voglio dire, le realtà postmoderne sono realtà dal punto di vista sociale e civico molto plurali. Il problema è che noi siamo in mancanza di una sintesi politica, e questo è il cuore del problema italiano, e questo è il cuore del problema che poi unisce tutte le tre grandi crisi che noi attraversiamo. Carlo Carboni, come la traduciamo questa sintesi politica che manca? Come la traduciamo? Cioè, testa dei programmi, dei piani, un progetto che possa rimettere in piedi l'Italia, che possa, qualcuno dice, dovrebbe partire dal basso, però adesso posso dire la mia, insomma, sì, io penso questo, che una sintesi politica. Fondamentalmente, poi c'è anche lì Michele Heinis che ha scritto La cura, certo, anche nel suo libro, visto che ha messo i rimedi, eccetera, eccetera. Però, insomma, come si fa a uscire da questa cosa? Beh, si fa uscire innanzitutto cambiando la classe dirigente, insomma, questo è decisivo, adesso a ridosso anche della competizione elettorale. Vediamo anche dei sommovimenti, no? Che ci sono stati, dei cambiamenti, e questo si spera possa effettivamente portare a un cambio della, innanzitutto della classe politica, e che sia un cambio anche, come dire, nella cultura di governo della nostra classe dirigente politica, perché scusate tanto, ma la politica nella Seconda Repubblica, a parte qualche eccezione, ha dimostrato di essere molto inclina alla detenzione del potere piuttosto che al governo e al bene collettivo. Sono state poco sì. Ci sono state, ma non sono mai state, come dire, anche queste non hanno fatto un tessuto in un progetto culturale condiviso dalla cittadinanza, come mi pare anche Secchi dicesse. Cioè ci manca effettivamente, in questo senso sono d'accordo con lui, ci manca, come dire, di fertilizzare un immaginario, ecco. Che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, e la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato. Non so se sia proprio una fortuna, però qualcuno dice, l'abbiamo sentito tante volte, soprattutto convincimenti che vengono dall'Oriente, che la crisi è un'occasione, diciamo, di rinnovamento, per cambiare, per ricominciare con nuove sfide. Sempre Roberta Giordano con voi qui in questa puntata specialissima di Non ci sono più le mezze stagioni, che si potrebbe intitolare Come ce la possiamo fare e come possiamo dibatterci tra vizi e virtù dell'Italia, vizi che abbiamo ricordato abbondantemente e qualche potenzialità che sempre ci rimane, che forse è più difficile da andare a recuperare e soprattutto da mettere in pratica. Sempre con me in collegamento ci sono oggi Michele Ainis, notissimo costituzionalista che ha scritto Privilegium, Mario Secchi, direttore del Tempo, Tutte le volte che ce l'abbiamo fatta, Lina Sotis che ha scritto Libretto di risparmio, il sociologo Carlo Carboni che ha scritto Elite e classi dirigenti, ma anche Il paese che funziona. Lina Sotis, tu dici nel tuo libro la crisi segna la fine di un mondo sregolato, fatto di escort, di ostentazione, di fretta, di avidità, c'è bisogno di un nuovo bon ton, di cui tu sei sempre stata maestra, appunto, atteggiamenti e desideri nuovi, nuovi lavori, un nuovo modo di conversare, di condividere, di dare, costringendoci a trovare un'economia sostenibile per le nostre tasche e i nostri umori. E dici: la crisi preferisce la gentilezza all'arroganza, la cultura al farsi vedere, il volontariato all'accumulo di guadagno. Ma per esempio, quando parli della gentilezza, che la crisi preferisce la gentilezza all'arroganza, invece si ha molto l'impressione, devo dirti, che in giro un po' tutti, gente comune, abbastanza piena di rabbia, abbastanza tesa e quindi anche con la voglia a volte di essere poco gentile, no? Gli uni con gli altri, reciprocamente. Non è forse che invece... Quella è la piazza. La piazza è giustamente furibonda, però... No, ma non è solo la piazza. Anche per esempio quando si va in macchina sono tutti più nervosi, tutti più cattivi, a volte anche sul lavoro, a volte anche in altri ambiti, no? Perché naturalmente la crisi, con le difficoltà che crea anche un po' di depressione, un po' di malcontento. E quindi mi domandavo se effettivamente la crisi preferisce la gentilezza all'arroganza. Lina, dai, che alla lunga sì, perché questa non è una crisi passeggera. Però saranno diversi i rapporti con i nostri vicini, saranno diversi i nostri rapporti con il quartiere che ci ospita. Le parole che ci circondano adesso sono completamente cambiate da quelle di 30 anni fa. Per esempio, la parola più ricorrente è sobrietà. Ricci. Già il governo Monti, no? È iniziato con questa sobrietà. Poi solidarietà. È tutto di competizione, la parola più folle che uno possa dire in questo momento, mentre la parola più bella è meritocrazia. Io vorrei citare una sola cosa del libretto di risparmio, perché mi sembra l'unica vera notizia, ed è il testamento dell'uomo più ricco del mondo, Warren Buffett. Il signore ha più di 80 anni e ha fatto un testamento in America pubblico. Ha lasciato tutti i suoi averi, che sono miliardi di triliardi, alla Bill Gates Foundation, perché sa devolvere i soldi alle cause giuste meglio di quanto lo farebbe lui. Poi, avendo tre figli, uno che fa il batterista, uno che fa il farmer con una grande azienda comprata dal papà e un'altra che fa la volontaria, ha lasciato tre pacchettoni di biliardi chiusi, vincolati. I due signori e la signora possono scegliere semplicemente a quale onlus donare quei soldi, perché il vero patrimonio lo hanno già ricevuto, sanno che l'eredità non esiste e che i soldi vanno fatti girare. Questa è una cosa molto bella, è una storia molto bella, Lina Sotis, questa di Buffett, che tra l'altro è quello che ha chiesto in America di poter pagare più tasse, e affermando più volte con fermezza che chi è più ricco più deve pagare le tasse, no? Però sì, non so quanto sia diffuso questa mentalità a parte il personaggio singolo. Dobbiamo ricominciare da zero, dobbiamo capire che per esempio i soldi del papà non ci spettano, li dividiamo. Cioè, dobbiamo veramente ricominciare. Ritorno allora, ricomincio da Michele Ainis. Michele, nel tuo libro parli di vari assi ereditari, parlavamo prima dei notai, però parli anche dei figli dei bancari che hanno diritto ad avere il posto del padre, comunque un posto in banca, parli dei sindacalisti che non pagano i contributi per la pensione, dei ferrovieri cui i familiari viaggiano gratis in treno, degli insegnanti di religione che prendono più di quelli di matematica, e poi citi anche percentuali, perché è molto documentato naturalmente anche il tuo libro. Dici il 44% degli architetti ha il papà architetto, il 42% degli avvocati è figlio d'avvocati, il 39% degli ingegneri genera figli ingegneri, proprio dicevamo, proprio c'è una genetica, insomma, in questo, l'eredità del posto di lavoro, insomma. E poi citi anche la figura del farmacista mortis causa, cioè che quando muore un farmacista si consegna la farmacia direttamente a un familiare, anche se magari non ha nessuna competenza farmaceutica. È un quadro abbastanza desolante, no, Michele? È uno dei nostri guai, è che noi abbiamo bisogno di separare ciò che è pubblico da ciò che è privato. Troviamo viceversa in circolo delle figure professionali che per metà corpo, una gamba e un braccio, sono professionisti liberi e per altra metà sono pubblici ufficiali, è il caso del farmacista e del notaio, e hanno quindi gli agi e i vantaggi di entrambe le posizioni, però poi questo succede anche per partiti e sindacati che sono associazioni libere e tuttavia fruiscono di finanziamenti pubblici, succede per le imprese foraggiate dallo Stato, gli aiuti di Stato pesano 25, forse 30 miliardi l'anno, e quando il fatturato di un'impresa sostanzialmente dipende dallo Stato diventa una creatura anfibia. Allora, è vero, come diceva Lina Sotis, che le crisi sono delle occasioni rigenerative, possono anche diventare però dei momenti in cui la società si incanaglisce. Io ho avuto questa impressione. Credo più questa seconda, temo più questa seconda possibilità, e temo ancora di più che il gattopartismo. Diceva poco fa Carlo Carboni che le nostre classi dirigenti sono immobili, immarcescibili. Questo ha dannato l'anima della Seconda Repubblica. Gli inquilini dei palazzi sono rimasti uguali, magari è cambiata qualche sigla di partito, non c'è stata una capacità di fare riforme, perché una vera riforma cambia le carte in tavola e chi dà le carte invece vuole continuare a darle. E allora questa questione diventa sì un fatto di volontà, di recupero di un'etica pubblica, ma anche di regole. Per esempio, una regoletta che impedisce di fare più di due turni consecutivi sui banchi del governo, quella che vale per Obama per intenderci, costringerebbe al ricambio. Un'altra regoletta che si chiama recall, anche questa è di matrice nordamericana, che costringe il parlamentare assenteista. In questa legislatura c'è un signore che ha totalizzato il 97% d'assenze alla Camera. Nessuno è andato a prenderlo per i capelli? Si può sapere nome e cognome? Tanto, no? No, io adesso non lo ricordo, poi non è tanto di questo che si parla. Ma però se qualcuno venisse un po' svergognato più spesso... No, si trova facilmente su Google. Però ecco, in questi casi, oppure del parlamentare che ti buggera a te, fronte elettore, si fa eleggere sul fronte degli anti-berlusconiani e diventa sentinella di Berlusconi, o viceversa. Di queste cambi di casacche ce ne sono parecchi, insomma, diciamo, no? Cioè... in quel caso in California, per esempio, tu fai un referendum e lo revochi, lo mandi a casa prima del tempo. Un'altra regola, poi a quel certo punto privilegium, io mi rendo conto, divento un po' visionario, però questo è un momento in cui c'è bisogno di riforme radicali, del chirurgo, non dell'aspirina. Per esempio immaginavo che, dato che abbiamo continuamente norme eccezionali e di favore, allora se tu devi farla, falla con una maggioranza più alta in Parlamento, rendi più difficile, come è difficile varare l'amnistia o cambiare la Costituzione perché occorre una maggioranza più alta. Sposta, noi abbiamo un Parlamento in cui gli avvocati sono 134, per esempio, difficile immaginare che la categoria non si protegga. Sposta in tutti i casi in cui c'è un conflitto di interessi ad altri, a un organo terzo, io immaginavo, perché no, sorteggiato, di cittadini sorteggiati, ovviamente se hanno certi requisiti. Tutte le competenze su cui il parlamentare è in conflitto di interesse, cioè la misura della sua indennità, il finanziamento al suo partito, la sua insindacabilità quando insulta il prossimo, insomma l'elenco sarebbe lungo, ma diceva Rousseau, ci vorrebbero degli dèi per dare delle leggi agli uomini, qui insomma di dèi non se ne vedono. E qui si richiama l'immaginario, le grandi metafore di Mario Secchi, no? Dobbiamo rivolgerci agli dèi o secondo te queste riforme radicali che proponeva per esempio Michele Ainis sono possibili? Tu hai detto che niente è impossibile, cioè ci vuole parecchia tutto fatica. È possibile. Tutto è possibile. Guardate che la crisi, io sono d'accordo con Lina Sotis, cioè la crisi sarà una grande occasione. Gli italiani ogni volta che hanno subito un forte shock si sono ripresi, cioè si sono come svegliati da un sogno, si sono ritrovati da un incubo a volte. No, si sono risvegliati dal sogno per ritrovarsi nell'incubo e allora hanno aperto gli occhi e hanno detto però insomma aspetta un attimo, mi faccio una doccia fredda. Esatto, mi faccio una doccia fredda, mi riorganizzo, eccetera. Ripeto, abbiamo tanti esempi, non lo so, noi ci dimentichiamo che ci siamo trascinati la incredibile stagione dell'utopia armata, del terrorismo. Noi avevamo un movimento terroristico che non aveva paragoni in Occidente, in Europa, per essere chiari, e lo abbiamo sconfitto. Lo abbiamo sconfitto quando improvvisamente, è un capitolo del libro questo, arriva il rapimento e il sequestro Moro. Lì gli italiani sono di fronte a una forza brutale, cieca, assassina, che minaccia tutti, e capiscono che bisogna fare la lotta al terrorismo, quella vera. E da lì comincia tutta un'altra storia, una storia di la linea della fermezza e non della trattativa, no? Nel caso Moro, una storia fatta di arresti, utilizzo di norme particolari, norme di indagine e così via, che consentono di uscire da quella stagione che sembrava impossibile. E quella non fu una grande prova dell'Italia, accidenti se lo fu. Il discorso cambia per noi quando negli anni Ottanta non riusciamo ad agganciare quella che poi diventerà il driver di tutta la rivoluzione economica, e cioè la tecnologia. Noi perdiamo quel treno là, l'information technology in particolare, e lo coltiviamo in maniera sparsa, macchia di leopardo in varie zone del paese, senza però farne un sistema coerente, e quindi restiamo un po' indietro. Questo significa forse che noi ci dobbiamo abbattere? No, perché abbiamo un sacco di esempi nella tecnologia. Carboni lo ricordava giustamente prima, nell'impresa, nell'industria, nell'artigianato, nel design, nell'arredamento, nella moda. Questo è un grande paese, cioè noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo, nonostante tutto, nonostante tutti i mali giustamente elencati prima da Ainis e così via, noi siamo la terza economia d'Europa per PIL, la seconda economia d'Europa dopo la Germania per manifattura, per PIL industriale. Quindi noi dobbiamo solo metterci in testa di essere ordinati e di dare un valore alle cose importanti che sono la scuola, l'istruzione, la formazione, l'università e la ricerca. Viva l'Italia! l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Siamo tutti contenti di risentirlo, in particolare Mario Sechi, dice, no, diceva un po' questa Italia liberata dalla guerra, liberata dal terrorismo, da altre difficoltà e poi risollevata, però anche un'Italia derubata e assassinata, come continua a dire De Gregori. Su questo non ci piove, purtroppo. Carlo Carboni, fra i vari personaggi che Mario Sechi racconta nel suo libro, proprio per parlare del genio italiano e delle possibilità che abbiamo, riattaccandoci alle nostre radici, di rialzarci, cita Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat, e dice: Sergio Marchionne cambia i connotati della Fiat da impresa decotta ad azienda globale. Poi dedica questo capitolo. A proposito di elite e di classi dirigenti, a lei piace Sergio Marchionne, per esempio? Ma guardi, non si tratta tanto di piacere, sono d'accordo invece che Marchionne rappresenta qualcosa che per noi è in qualche maniera, come dire, una novità. Ecco, quello che rappresenta, la Fiat, certo. Chrysler si è trasformata, è la prima società italiana che si trasforma in realtà in una società veramente multinazionale, o si sta trasformando in una società multinazionale. Anche se in Italia non gode in questo momento di grande, grande popolarità, diciamo. Una vera società multinazionale effettivamente è interessata al proprio paese e a tutti i paesi. Questa è la realtà oggi delle multinazionali nel mondo. Sono come dire, atterrano con i loro, come degli elicotteri, su delle piattaforme che loro trovano attraenti in giro per il mondo. Questo è una realtà che comunque l'Italia delle piccole imprese, eccetera, eccetera, l'Italia delle medie imprese ancora non ha conosciuto e sta conoscendo, e naturalmente dei suoi aspetti positivi e negativi. Lina Sotis parla nel suo libro anche di spiritualità, con varie sfaccettature non necessariamente diciamo riconducibili all'idea che abbiamo proprio in senso un po' tradizionale di spiritualità. Cosa intendi, Lina? Ma soprattutto che è il momento in cui gira una parola, empatia, che io sono una vecchia di 68 anni, perché quello che voglio dire, in questo periodo di crisi rimpossessiamoci delle cose importanti, ovvero la vecchiaia, la flessibilità, perché anche quello è un modo, la voglia di non andare sempre in fretta, fatto in fretta è meno divertente tutto, e soprattutto riappropriamoci dei nostri visi e delle nostre rughe, ridiventiamo delle donne e degli uomini quelli che siamo, e in questo la crisi può molto aiutarci. Quanto alla spiritualità, viene fuori una parola come empatia, che prima era, non dico sconosciuta, ma quasi. Adesso ogni adolescente usa tre parole: tranquilla, scialla, empatico. C'è qualcosa da pensare, no? Questo sì, nelle parole certamente, ma poi lo fanno nei fatti, riescono veramente a mettersi nei panni degli altri, quindi a essere empatici, a non pensare soltanto a se stessi, a non avere... Troppo da me, speriamo, visto che lo dicono tanto, speriamo che almeno ci provano. È una speranza. Anche perché poi i giovani di adesso sono i veri tartassati, non c'hanno più niente del mondo che noi abbiamo avuto, loro devono essere veramente mimetici, se non altro nel linguaggio vanno avanti. Carlo Carboni è d'accordo con questo? Questa visione negativa dei giovani? No, era anche abbastanza positiva nel negativo, quella di Lina Sotis. No, dice... molto positiva. Io trovo che i giovani sono straordinari. Cioè, sono ridotti male, ma sembra che abbiano delle buone risorse. Ma questo senz'altro. Cioè, è chiaro che i giovani sono ridotti male. Sono ridotti male sul piano culturale, dell'immaginario, del mercato del lavoro, dell'università e della scuola, quindi ci sono grandi problemi per i nostri giovani, sono oggi la nuova vera marginalità sociale, sono relegati come esclusi. Che fine faranno, Carlo Carboni? Cioè, parliamo di positivo e negativo finora, però visto quello che c'è adesso, per quello che l'Italia è in questo momento, e quindi anche rispetto a quello che i giovani possono, di cui possono godere, o le cose che possono fare e il futuro che possono sognare, se ancora si può sognare il futuro, mi sembra che si possa essere ottimisti. O come dice qualcuno, è davvero una gioventù bruciata, queste generazioni di... Ma forse stiamo togliendogli i mezzi per immaginare il futuro, più che siamo proprio di fronte a una immaginazione giovanile del futuro. Penso che più che altro non abbiano i mezzi per suscitare questo immaginario, che d'altra parte consideriamo anche che il loro immaginario dei nostri giovani è molto più intriso del nostro immaginario del consumismo e di quella rivoluzione tecnologica della comunicazione di cui parlava prima Secchi. Quindi stanno maturando anche nuovi linguaggi, mentre la scuola è tecnologici, ma non solo tecnologici, anche generativi, innovativi, che sia la scuola che l'università purtroppo ignorano. Io penso che il nostro problema dell'istruzione, del sistema di istruzione superiore, non sia un problema di concorsi, solo di concorsi, è un problema anche proprio di linguaggi, di rivedere comunque anche il modo di fare didattica, soprattutto negli ultimi anni dell'università. Non dimentichiamo che i nostri giovani sono destinati a studiare, soprattutto se intraprendono studi superiori fino a 27-28 anni. E secondo me veramente è un'età troppo elevata. Tant'è vero che lo IARD dice che questi giovani hanno una loro stabilizzazione, diciamo, sul posto di lavoro o comunque anche nel loro lavoro autonomo solo a 38 anni. Mi dica lei come possono diventare classe dirigente da giovane. A questo proposito, mi scusi Carlo Carboni, Michele Ainis, tu parli anche, già l'avevi accennato prima, di polarizzazione del reddito, di immobilismo sociale, cioè di un ascensore sociale che ormai è rotto da tempo, e quindi i professori sposano i professori, i commercianti, è molto probabile che un figlio di operaio andrà a fare l'operaio o l'operaia, senza per questo denigrare, diciamo, certe occupazioni, ma questo significa non poter cambiare il proprio destino rispetto a quello che hai ricevuto un po' in dote? Sì, dietro le quinte dei nostri problemi poi sbuca fuori sempre una questione che riguarda l'eguaglianza. Eguaglianza che non va intesa alla cinese ai tempi del presidente Mao, cioè l'eguaglianza di tutti in tutto, che era un'eguaglianza... Omologazione era, insomma, no? Sì, era un'eguaglianza nei punti di arrivo, tutti devono avere addirittura la stessa giacchetta, cos'era, verdolina, sì. Ma è un'eguaglianza nei punti di partenza. Dopodiché chi ha più gambe per correre, che corra. Questo però, per prendere sul serio questo principio, significa anche accettare una competizione sociale e non un falso solidarismo di cui sia la tradizione cattolica che quella comunista, in nome di un principio di difesa dei più deboli, sono sempre state diffidenti verso il merito, salvo poi parlarne nei salotti. È un grosso problema, sì, questo della meritocrazia. Significa anche competizione e selezione, ma dei migliori e non dei figli di papà. Come diceva anche prima Carlo Carboni, siamo proprio più o meno in chiusura. Mario Secchi, questo cavallo bianco che tu dici ci sottovalutiamo, e quando lo prenderemo, cioè ci saliremo su questo cavallo bianco per andare verso, diciamo, mete più accattivanti? La metafora del cavallo bianco, cioè degli italiani che non vogliono salire sul cavallo bianco, attraversa un po' tutto il libro. Io non sono convinto che ci dobbiamo salire per forza e soprattutto per sempre. Cioè, io penso che gli italiani è giusto che mantengano quel tipo di estro e anche un po' di anarchia che hanno, che li rende diversi, singolari rispetto ad altri popoli. Dobbiamo solo essere un po' più ordinati. Ed è questa la cosa che mi salta sempre in mente quando faccio delle comparazioni, quando ho cominciato a scrivere il libro. Ovviamente ho preso tante storie, no? Come esempio, e poi però le ho, come dire, ho scenarizzato anche il tutto, nel senso che ho abbracciato la contemporaneità, poi sono tornato indietro di 150 anni e poi ho provato ad andare avanti, cioè come sarà l'Italia nei prossimi 20-30 anni. Allora, la verità è che, come diceva Carboni, qua a noi non ci manca nulla, forse un po' di materie prime, ecco, ma non è che ci manca il genio nel lavoro, non è che ci manca la capacità di produrre. Non ci manca il genio, ma ci manca il lavoro. Questo è un po' il problema. Capito? Allora, in realtà, quello che è mancato in questi anni, soprattutto negli ultimi 20, fatti di un confronto politico durissimo, e col senno di poi sbagliato, è il sogno, l'immaginario, la visione. Se voi guardate le parole della politica oggi, sono desolatamente vuote, perché nessuno, e ripeto, nessuno ti propone una visione del paese per i prossimi 10-20 anni, che saranno invece quelli decisivi, e cioè se restare, si dice, se non sei a tavola vuol dire che sei sul menù. Io da italiano vorrei stare a tavola. Lina, ci dici un'ultima cosa proprio in pochi secondi, Lina Sotis? In pochi secondi? Sì. Arriva la crisi, meno soldi, più sorrisi. Vabbè, cominciamo a sorridere, magari ci sentiamo già meglio. Allora io ringrazio Lina Sotis, Michele Ainis, Mario Secchi, Carlo Carboni. Chiuderei, giusto per tirarci su, con una frase di Woody Allen che dice: l'umanità si trova oggi a un bivio. Una via conduce alla disperazione, l'altra all'estinzione totale. Speriamo di avere la saggezza di scegliere bene. E quindi, a maggior ragione, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti. We'll be right back.